l'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Io sono Lucia Cappellucci e questa è Radio Libriamoci Web. Il 22 marzo è stata la giornata mondiale dell'acqua, il cosiddetto World Water Day, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e facente parte del pacchetto delle direttive risultate dalla conferenza di Rio. Vi do ora quindi due notizie riguardanti proprio l'acqua. Da www.repubblica.it del 22 marzo 2012. UNICEF. Le popolazioni più povere sono tagliate fuori dalle risorse idriche. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, l'appello dell'Agenzia dell'ONU. Sono ancora centinaia di milioni le persone senza accesso all'acqua potabile. Mentre il mondo celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua, l'UNICEF invita i governi a prestare particolare attenzione alle persone che vivono nelle zone rurali e che non godono dei progressi del loro paese, specialmente per quanto riguarda l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari di base. Due settimane fa un rapporto UNICEF, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha mostrato che sono prevalentemente i poveri delle aree rurali coloro che non hanno ancora accesso a queste risorse fondamentali per la sopravvivenza. Raggiunto un obiettivo del millennio, ma i governi devono assicurarsi che grazie alle risorse spese si ottengano risultati concreti per le persone più povere. Ha così affermato il responsabile UNICEF dei programmi acqua e servizi igienici. Altrimenti, rischiano di lanciare un'ampia parte della loro popolazione, in particolare i bambini, sempre più vulnerabile alle malattie. Il rapporto Progress on Drinking Water and Sanitation afferma che il mondo ha raggiunto già dalla fine del 2010 l'obiettivo del millennio riguardante l'acqua potabile, avendo l'89% della popolazione mondiale, cioè circa 6,1 miliardi di persone, accesso a fonti migliorate di acqua potabile. Tuttavia, nel rapporto è anche detto che gli abitanti delle aree rurali hanno una probabilità molto più alta rispetto a chi vive nelle zone urbane di non avere accesso all'acqua potabile sicura. Secondo il rapporto, vi è globalmente una forte disparità fra la possibilità di accedere all'acqua potabile nelle aree rurali rispetto alle zone urbane. Sono 783 milioni senza acqua potabile. Delle 783 milioni di persone ancora senza fonti migliorate di acqua potabile nel 2010, 653 milioni vivono in aree rurali. Il quadro risulta ancora peggiore per i servizi igienico-sanitari a livello globale. Il 79% della popolazione urbana utilizza servizi igienici migliorati rispetto al 47% della popolazione rurale. Questo significa che il 72% di coloro che non hanno accesso ai servizi igienici adeguati, cioè 1,8 miliardi di persone, vive in zone rurali. L'UNICEF afferma che il divario rurale-urbano per l'acqua potabile è particolarmente acuto nei paesi più poveri. Nell'Africa subsahariana la disparità fra le zone urbane e quelle rurali è di 34 punti percentuali. In media, nei paesi meno sviluppati, 97 abitanti su 100 delle zone rurali non hanno un sistema di tubazioni che permetta di avere l'acqua in casa. Alle donne l'onere di portare l'acqua. L'UNICEF inoltre dichiara che sono soprattutto le donne e le ragazze a portare anche fisicamente il peso e il carico dell'acqua. Le indagini infatti condotte in 25 paesi dell'Africa subsahariana hanno rilevato che nel 71% delle famiglie senza acqua sono le donne o le ragazze le principali responsabili per la raccolta della stessa. Ogni famiglia richiede in genere almeno un viaggio al giorno e spesso più per la raccolta dell'acqua. Si stima che queste donne spendano un totale di almeno 16 milioni di ore ogni giorno per la raccolta di acqua potabile. Gli uomini invece ne spendono 6 milioni e i bambini 4 milioni. L'eco del silenzio. Silenzio. Sempre a proposito di acqua, da www.repubblica.it del 22 marzo 2012. Acqua. In Mali è una risorsa in vendita e i contadini lavorano per i nuovi padroni. La testimonianza di Sama Charlotte Zanton, sindacalista del più importante sindacato contadino del paese. Sempre più diffuso è il fenomeno dell'accaparramento delle terre che si combina al furto delle altre risorse naturali. Prima di tutto quelle idriche, in un paese con intere regioni rigogliosissime per il passaggio del fiume Niger. Di Paola Micucci. L'acqua rubata. Siamo come l'asino, che sotto il sole ha il sale sulla schiena e non può leccarlo. è costretto solo a trasportarlo. Noi maliani siamo così con terre fertilissime e con abbondanza d'acqua, ma che non possiamo utilizzare. È la denuncia di Sama Charlotte Zanton, dirigente di Sexagon, una delle componenti della CNOP, il più importante sindacato contadino del Mali. Terra e acqua la stessa battaglia. In un paese che ha il 60% del territorio desertico, il land grabbing, il fenomeno sempre più diffuso dell'accaparramento delle terre da parte di stati stranieri e multinazionali, sottratte alle comunità locali, è raddoppiato e aggravato dalla pratica del water grabbing, una realtà che nasconde spesso il tentativo di impossessarsi delle poche terre irrigue del paese, situate sui bordi del fiume Niger, o di realizzare opere di convogliamento e canalizzazione delle acque per la produzione di merci destinate alle esportazioni. Così, in Mali, la battaglia dell'acqua si lega indissolubilmente alla battaglia per la terra. Il sindacato contadino. Charlotte Zanton, in Italia partner della ONG COSPE, nel progetto della regione toscana Acqua Bene Comune, al ritorno dal Forum Mondiale dell'Acqua di Marsiglia, racconta la sua storia di contadina, costretta dalla continua violazione dei diritti umani ad occuparsi, oltre che dell'azienda familiare di 6 ettari coltivata a riso, anche di battaglie sindacali. Sexagon, infatti, è particolarmente attiva nella zona del Office du Niger, l'area del Mali più colpita dal water grabbing, proprio a causa della disponibilità di acqua in prossimità del fiume Niger. Le svendite del governo. Il governo maliano svende le terre più fertili e profittevoli, non solo agli stranieri ma anche alle elite locali, spiega Charlotte. Non si tratta di investimenti preziosi che miglioreranno la produzione agricola, come ci viene raccontato dai politici, ma una strategia precisa che stromette i contadini da terre su cui coltivano da secoli e li trasforma in braccianti per i nuovi padroni, che acquistano migliaia di ettari di terreni già lavorati da maliani e quindi migliori. Violenze e sgomberi forzati. L'avvio di progetti internazionali come quello del consorzio libico Malibia, un canale di 40 km che sottrae acqua dal fiume Niger per l'irrigazione, sono accompagnati da aggressioni e azioni violente contro chi si oppone da parte di forze di polizia private o dallo stesso esercito maliano. Numerosi sindacalisti sono in carcere oggi, ma abbiamo avuto anche 5 morti, decine di pestaggi e una donna incinta ha perso il suo bambino nel villaggio di Sanamadugou. Continua la dirigente maliana. Sono arrivati uomini armati per sgomberare le terre acquistate col progetto Sosima. L'anziano capovillaggio ha preso la parola ma è stato picchiato. Hanno distrutto le case e l'intera comunità è stata sfollata. Ma nessuno verrà punito perché le nostre denunce cadono nel vuoto. L'appoggio che le autorità statali dell'Office du Niger danno alle politiche violente di accaparramento, secondo il presidente del CNOP, Ibrahima Koulibaly, sono un vero e proprio banditismo di Stato, funzionale alle svendite delle terre e delle acque. Le accuse pronunciate a Marsiglia. Al Forum Alternativo dell'Acqua di Marsiglia, Charlotte Zanton ha pubblicamente accusato i dirigenti maliani che negavano il water grabbing, le minacce e le intimidazioni non si sono fatte attendere, e il rientro in Mali ora è più preoccupante. So che le nostre vite sono a rischio, io faccio la contadina e voglio difendere la mia terra, ma non solo. Quando un intero cimitero viene distrutto e le ossa dei nostri parenti buttate in una fossa comune per costruire un canale, l'intero Mali dovrebbe dire basta. Lo scarso potere negoziale del Mali. Nonostante una legislazione nazionale piuttosto avanzata che protegge i diritti di accesso alla terra e le risorse di tutti i cittadini, l'accesso all'acqua e ai servizi sanitari è sancito come priorità nazionale dalla Costituzione del 1992. Lo scarso potere negoziale del Mali e le crescenti difficoltà economiche determinano una situazione di illegalità diffusa che favorisce gli interessi dei grandi gruppi agroalimentari mondiali. Le buone pratiche della Toscana. L'ONG COSPE ha portato al Forum di Marsiglia l'esperienza della regione toscana Acqua Bene Comune per Tutti, che coinvolge enti locali e società civili riuniti nel gruppo di lavoro sulle risorse idriche del Tavolo Africa della regione toscana. Dal 2007, attraverso esperienze concrete condotte in diversi paesi dell'Africa subsahariana, Senegal, Mali, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, Tanzania e Swaziland, il progetto ha cercato di coordinare e migliorare la capacità di intervento dei soggetti toscani e dei partner locali per garantire nei vari contesti l'effettività del diritto umano all'acqua, ma anche di rafforzare la visione politica, sociale, tecnica ed economica sulla gestione delle risorse idriche. L'eco del silenzio. Silenzio. Con l'inizio della primavera e quindi con il progressivo aumento delle temperature, inizia nuovamente a parlare di sbarchi. e di tutto quello che comportano per queste persone una volta arrivate sul suolo italiano, o quantomeno nelle acque italiane. Da www.repubblica.it si aprono due nuovi CIE, altri sbarchi all'orizzonte, di Vladimiro Polchi del 23 marzo 2012. In attesa di una nuova ondata di sbarchi, il governo Monti rinforza le difese. Mentre si discute ancora della possibilità di riaprire un centro d'accoglienza a Lampedusa, il Viminale avvia la costruzione di due nuovi centri di espulsioni, CIE, a Santa Maria Capua Vetere, Caserta, con una capienza di 200 posti, e nel comune di Palazzo San Gervasio, Potenza, per altri 100 posti. È quanto si legge nella direttiva generale del Ministero dell'Interno per la gestione del 2012, firmata dalla titolare del Viminale, Anna Maria Cancellieri, il 12 marzo scorso. I due centri, in verità, erano già stati aperti durante l'emergenza sbarchi dello scorso anno, in strutture del tutto provvisorie. Un'ordinanza del Presidente del Consiglio Mario Monti, del gennaio scorso, ne aveva prolungato la vita fino al 31 dicembre 2012. Ora, stando alla direttiva del Viminale, si capisce che diventeranno strutture definitive di trattenimento degli irregolari, aggiungendosi alle altre 13 già presenti in Italia. Il timore, infatti, è che nel 2012, dopo i 62.000 sbarchi del 2011, porti una nuova ondata di arrivi, anche per il crollo del muro dei respingimenti in mare, dovuto alla recente bocciatura dell'accordo italo-libico da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. I migranti sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa potrebbero dunque essere solo l'avanguardia. A lanciare l'allarme è l'ultima relazione dei servizi segreti al Parlamento. Con il persistere della crisi in Nord Africa c'è il rischio di una riattivazione delle direttrici verso la Sicilia e la Sardegna, oltre a un consolidamento delle rotte egiziane e medio orientali verso Calabria e Puglia. Al via i lavori per i due nuovi CIE. La direttiva generale del Ministero dell'Interno per la gestione relativa al 2012 parla chiaro: aprono due nuovi CIE. Sono state avviate, si legge, le procedure per la realizzazione di nuove strutture di trattenimento, una nel comune di Santa Maria Capua Vetere, Caserta, con una capienza di 200 posti, e un'altra nel comune di Palazzo San Gervasio, Potenza, con una capienza di 100 posti. Nel settore dei centri per immigrati, si legge ancora nella direttiva, a luglio 2011 è stato aperto il centro di identificazione ed espulsione CIE di Trapani Milo, con capacità ricettiva di 204 posti. Sono terminati i lavori di ripristino del CIE di Caltanissetta, località Pian del Lago, 96 posti, che era stato completamente danneggiato a seguito di un incendio. Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione e adeguamento del CIE di Sant'Anna di Isola Caporizzuto, Crotone, per una capienza di 124 posti. In tutto, il Viminale prevede un incremento della capacità ricettiva in termini di posti dei CIE, 200 in più nel 2012 e 200 in più nel 2013. L'eco del silenzio. Silenzio. Sempre per quello che riguarda immigrazione e sbarchi, un articolo della redazione del portale www.vita.it. Lampedusa, accoglienza ai minori totalmente inadeguata, del 23 marzo 2012. Ripresi gli sbarchi, la denuncia di Save the Children. Save the Children, presente sull'isola con un operatore dell'ambito del progetto Presidium del Ministero dell'Interno, ha verificato nei giorni scorsi le condizioni di accoglienza dei minori sull'isola, che si sono rivelate totalmente inadeguate, in particolare per quelli ospitati inizialmente insieme agli adulti nell'area marina protetta, in condizioni igieniche e ambientali precarie, senza la possibilità di lavarsi, con difficoltà di accesso all'assistenza medica necessaria, e trasferiti ieri nel residence di Cala Creta, insieme agli altri dove le condizioni sono migliori. La ripresa degli arrivi dalla Libia, con viaggi che continuano ad avvenire in condizioni drammatiche e disperate, come dimostra il naufragio di sabato scorso, conferma la presenza, come durante tutto lo scorso anno, di minori soli, anche molto giovani e ragazze. Siamo preoccupati innanzitutto per la gestione della prima accoglienza, che vista l'indisponibilità del centro di contrada Imbriacola e dell'ex base Loran, si trova ad utilizzare strutture alternative anche totalmente inadeguate, ha spiegato Raffaella Milano, direttore programmi Italia-Europa di Save the Children. Sono, per ora, 20 minori non accompagnati, tra cui 3 ragazze, ancora presenti a Lampedusa dopo essere stati soccorsi insieme ad altri in mare nei giorni scorsi, quando in uno dei naufragi hanno perso la vita 5 persone e verifiche sono in corso su altri 4 dispersi. Tutti fuggiti dalla Libia e originari della Somalia, i minori hanno 15, 16 e 17 anni. La più giovane è una ragazza di 13 anni. Per quanto riguarda l'accoglienza, una settimana dal loro arrivo, 20 minori, per motivazioni al momento non chiarite, non sono ancora stati trasferiti sulla terraferma, come sta avvenendo invece oggi per altri migranti adulti. Sappiamo che per i minori la disponibilità dei posti per il collocamento nelle strutture temporanee o definitive, che sembrerebbe confermata, e la garanzia della relativa copertura finanziaria da parte del governo, che stiamo al momento verificando con le autorità, sono due condizioni indispensabili. Tuttavia, nonostante gli sforzi fatti, dobbiamo constatare che dopo un anno ci ritroviamo ancora senza un sistema nazionale organico che affronti l'emergenza minori con una definizione chiara dei livelli di responsabilità tra Stato centrale, regioni e comuni, e dei fondi necessari per garantire da subito protezione e accoglienza adeguata. Non possiamo permetterci di affrontare una grave situazione emergenziale come quella che abbiamo già vissuto nel 2011, puntualizza Raffaella Milano. L'ultima notizia è molto molto piccola, ma riguarda un qualcosa di cui ci siamo già occupati numerose volte: la scrittura, la riscrittura e l'interpretazione dei fatti storici nei libri di testo. Da www.elmensile.it del 23 marzo 2012. Egitto, fuori Mubarak dai libri di storia. La nuova sfida dell'Egitto è quella di riscrivere i libri di storia, cancellare le falsità che sono state raccontate sull'epoca trentennale dell'ex Rais Hosni Mubarak. La proposta di revisione dei testi è arrivata dalla Commissione Informazione e Turismo del Parlamento egiziano e chiede anche al Ministero della Cultura di inserire nei libri i fatti del 2011 relativi alle rivolte accompagnate dalle biografie dei loro principali protagonisti. Negli ultimi mesi si è acceso un dibattito sull'insegnamento della storia egiziana nelle scuole tra chi vorrebbe che si continuasse a parlare di Mubarak, dei suoi aspetti positivi e negativi, e chi vorrebbe fare una revisione totale dei momenti del regime. Il dibattito ha coinvolto anche il ministro dell'istruzione, Gamal Al-Arabi, che ha affermato che i testi adottati finora continueranno ad essere usati. Anche per questa settimana le nostre notizie silenziose sono terminate e a me non resta che augurarvi frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.